Benvenute a tutte e tutti a una nuova puntata di Eclettismi spaziali sottotropicali. Una puntata estiva dall'Ecuador. Siamo io e DJ Lau in Ecuador a cercare una fonte dell'eterna giovinezza. Perché DJ Lau? Ho seguito la via e sono arrivato fin qui e ho sentito che dovevo cambiare qualcosa, che dovevo rinnovare le energie interiori dopo tutti questi anni di pessimismo e fastidio. Volevo una nuova energia. Sì, perché siamo arrivati alla soglia oltre i 40 anni, oltre. La puntata si chiama Giovani dentro, vecchi fuori. Giovani fuori, vecchi dentro. Siamo qui. Un giorno stavo a Centocelle alla ricerca di un benessere. Ho trovato un centro benessere cinese. Ho incontrato DJ Lau. Siamo diventati amici. Lui è un vecchio saggio di Centocelle da anni. Aiuta la comunità. È un negozio di rimedi naturali per ringiovanire anche. E cercavo la crisi di mezza età. Cercavo delle soluzioni veloci per ringiovanire, perché mi sento giovane dentro, però capelli bianchi, volevo fare qualcosa e sono andato da lui. Dici un po', Lau, quanti rimedi, quante cose che hai, perché mi ha consigliato di mettere una lumaca, mi ha parlato di una bava, insomma non è andata benissimo. Era la lumaca arcobaleno, che ha questo guscio multicolore che ringiovanisce, ma purtroppo è lenta, quindi comunque non fa in tempo a rendere il cuoio capelluto abbastanza giovane, che arrivato dall'altro lato comunque ricominciano a crescere quelli chiari. Abbiamo fallito. Poi abbiamo i pesci per i piedi, che quando c'hai quei piedi un po' vecchi non li metti nei pesci che ti mangiano le pellicine. Il formicaio per pulire le orecchie, si mette l'orecchio sul formicaio e le formiche puliscono, si sente molto meglio. Poi c'è contro le pulci la scimmia e il rospo che è fritto. Quello per ringiovanire dentro, mentre tutte le altre erano per ringiovanire fuori, queste per ringiovanire dentro. Vabbè, insomma, mi ha confessato dopo, perché siamo diventati amici, questi rimedi alla fine non so fino a che punto servono, forse sono inutili. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo deciso di andare in Ecuador a cercare invece una bella fonte di eterna giovinezza, così ci togliamo il pensiero, non ci mettiamo lumache in testa e ritorniamo o rimaniamo giovani per sempre. E siamo qui insieme a... non so se sentite questo suono. Chi sono? Questo è un gruppo Gamelan, più o meno di Bali, Bali sud-est, c'è un centro, fanno questa musica. Niente, ci eravamo persi e fortunatamente, sentendo il suono dei gamelan, abbiamo seguiti e sembra che loro sappiano dov'è la fonte. Quando avevo 16 anni mi sentivo vecchio, stanco, non ne potevo più di vivere quella vita banalizzata dal mio nichilismo. Poi ai 26 ho detto, ma vaffanculo, me ne vado, e sono scattato da quella routine secolarizzata di lavoro, casa e alcol. Ho inseguito solo l'alcol e non sono arrivato lontano. Ora sono sui 45 senza né lavoro né alcol e mi sento un cazzaro di 16. Me ne vedo. Pronto? Amici, mi sentite? Sì. Allora, io sono qui ai Castelli, sono a Genzano. Sì. La patria della mitologia occidentale. Ecco, sto facendo il mio ricambio di sangue, il secondo dell'anno, e lo faccio prima della stagione caldissima. Però vi posso dire che già che siete in Ecuador, ho scoperto una cosa. Forse non tutti sanno che probabilmente la famosa fonte di vita, di eterna giovinezza, che si trova in Ecuador è l'albero dell'avocado. D'accordo, ragazzi? Quindi probabilmente la vostra ricerca, giusta o sbagliata che sia, dovrà portarvi all'albero di avocado più antico del pianeta. Ecco, adesso io sono con voi con il sangue a metà. La giovinezza è nella ricerca, o è forse è la ricerca della giovinezza, l'essenza stessa della giovinezza. I was beaten to a print in Benin with a catfish. Ecco, mi sentite? Mi coprite? Io vi sento. Bellissime parole, veramente. Ci stiamo emozionando. ho appena schivato una scimmia che mi tirava la cacca, però le parole che mi ha detto mi emozionano di più. Quindi l'avvocato dobbiamo cercare? Sì, esattamente. In questi giorni di immobilità per il ricambio di sangue sto studiando e continuando ad avere informazioni, a cercare info proprio su quello che può essere il luogo esatto di questo albero secolare. Malaika nakupenda, malaika, malaika nakupenda, malaika, ingekuwa maliwe, ingekuwa nashindwa na mali sinawe, ingekuwa malaika, nashindwa na mali sinawe, ingekuwa malaika. Esa za sobo royangu, cercheremo il mango, ma seguiamo pure i balinesi che ci porteranno alla loro visione dell'eterna giovinezza. Grazie, ci sentiamo. Tu sei il piccolo Young, esatto, Young. Piccolo Young. Io comunque stavo parlando di avocado, il mango è un'altra cosa. Mi raccomando, ragazzi, non sbagliare, okay. Come al solito, diciamo, non usiamo le droghe lì locali, usiamo quelle che vi siete portate da casa, perché non siete abituati, vi dovete prima acclimatare, va bene? Va bene. E ricordatevi che forse è l'attesa stessa del ringiovanimento a essere il giovanilismo, eh? Io pensavo fosse la vecchiaia quella. Malaika nakupenda, malaika, malaika nakupenda, malaika, ingekuwa maliwe, ingekuwa Sinwana mali sinwe, ingekuwa wa malaika. Sinwana mali sinwe, ingekuwa wa malaika. Ayana yambo dosi yinga bati tunya nem, titunya nem, titunya neri payete kunti pa tosaba, yanyam saba. Yanyam saba, mwenye na yamba dosi yinga bati tunya nem, titunya nem, titunya nede pa yete bunti pa dosa bab. Yanyam saba, yanyam zam. Okay, check it. Man sinde yane, man sinde wada. Bi bastam toko si wada, sinde fore. Samande, nuva gudro, arzo misre nore. Ta ponte kuka yare, man sinde bene. Di pewe saan vege, bi managan widigam nenga. Lam toko mbidi wa yiben, daba da gwilige. Da vieta sinne yikna, tam baslam sinne chenna, daba da gwilige. An chuka ta gwilige, di panga ba posta da wala rasamba tonga bene. Boda koma, da managan kalam sam lugun pam koma. Lebe ganche zaka, am saan son sam. Don't wanna want to get the hip hop la legine web parce que l'on a bah oui dans ce quotidien 3 10 yar nyakata ba. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera quand un noir on disait que non certes comme un ami, mais parce qu'il est vous honorable et que les giovinezza? Il caos. Manda a puttane una relazione, che sia di lavoro, d'amore, d'affitto, familiare o di amicizia. Fai spazio al caos e sarai di nuovo lì, a costruire la tua identità, a devastarti senza ritegno e a non sapere manco dove sta di casa la zona di comfort. Il caos. Da esso rinasci e sei più giovane di sempre. Spesso dei giovani dentro, ma non si considera quanto siano pericolosi invece i vecchi dentro. I giovani vecchi dentro. Mai giovani, nati vecchi, che non hanno mai superato la fase rivoluzionaria adolescenziale e quindi sono sempre stati omologati e fanno cose da vecchi, tipo uccidere gli animali sulla spiaggia e essere omologati a tutto ciò che gli viene detto dai telegiornali, vestire con la camicia bianca a 14 anni. Questo è il vero pericolo, non i giovani dentro. Che sì, magari a 46 anni fanno sport e si spezzano in due, ma i vecchi dentro sono un grandissimo problema. Vecchiaia, vorrei aprire qui un, se possibile, una piccola mia rubrica, no? Che si chiama Anziano Consapevole, perché quello che sto capendo in questi giorni, ostinandomi a voler essere accettato, ma non per quello che sono, ma per quello che gli altri vorrebbero che io sia, e cioè un eterno giovane, sto riscontrando invece in realtà in me tutti i sintomi di una precoce anzianità, quindi l'odio dei giovani e l'incapacità di ascoltare musica a livelli normali, la poca voglia di socializzare con chi che sia, e mi piace, tutto questo mi sta cominciando a piacere. Cioè, io penso che in realtà questo mito dell'eterna giovinezza che va avanti dai tempi dei tempi, forse la nostra società che non riesce più ad accettare l'anziano per via del suo odio. È una società che vuole soltanto appunto bellezza o odio gratuito, odio giovanile, quell'odio fine a se stesso, quell'odio. Worldwide, the ink still moist on his new tattoo. Feeling fresh as a pharaoh, I enter the room. And they reaching out, wanna see the whole thing. They wanna put hands on my body and taste these gold rings. Let me feel the beat first. Chill. Feel the beat first. Chill. Boys and girls link up for the weekend. Chill. Girl gang, girl gang, girl gang, baby. Però un tempo l'anziano e nelle società, diciamo, primitive, arcaiche, l'anziano in realtà era l'unico depositario della storia. Dicono che fosse perché ce n'erano pochi. Sì, certo, e quindi chi aveva la forza e la capacità di arrivare alla longevità era depositario di cultura, di miti, ma soprattutto era il depositario della storia del villaggio. Forse ci siamo persi di nuovo. Non vedo più i balinesi. In questa puntata ci sono dei pezzi ballabili che fanno venire mal di testa al nostro DJ Ricambio, perché è chiuso in una clinica a cambiarsi il sangue per l'ennesima volta, perché pensa che può fare tutto quello che vuole, tanto poi c'è un reset clinico e può rinascere ogni sei mesi. Beh, io diciamo che seguo la scuola dei Rolling Stones. De los listones. Albino. C'è da dire un'ultima cosa. Sì, appunto, vi volevo dire che mi sto un po', non so se voglio ringiovanire. Ci sto bene da anziano. Cioè, mi sento, cioè, come se fosse giusto. Ma il discorso che facciamo è: ti senti più anziano rispetto alla tua età anagrafica o sì, la tua età, quella che hai? Questo è il problema che ha fatto proprio nascere questa idiosincrasia, il sentirsi comunque, però più vecchi, dillo, più vecchio. Non ce la faccio a dire. Dillo, ti senti non... più vecchio. Il problema è sentirsi più vecchio rispetto a un altro della tua età che sembra più giovane della sua età e quindi anche di te. Ma no, non è un questo non è un problema per me, nella mia invidia che mi scorrono. Che io mi sento di fare allora è, come al solito, andare contro tendenza. Allora tu mi vuoi giovane e io mi invecchio, ok? Tu mi obblighi a essere giovane e io vado al centro anziani. Gelao, abbiamo trovato la fonte. No, segui quel topo, segui quel topo. Lui sa la via. Guarda, guarda, laggiù. Eccolo, eccolo, lo vedo, è un avocado. È l'albero. Sembra chiaro che essere giovani oggi e avere un po' di soldi per fare un po' di chirurgia estetica, perché se no come non si è giovani, già a 18 anni qualcuno ha bisogno di rifare il seno. La giovinezza si va perdendo, non c'è più la giovinezza di una volta. I nostri sforzi sono stati ricompensati. Finalmente, bevendo questo, saremo eterni. Non drammatizziamo, non drammatizziamo. Tranquilli. Ecco, si stacca di ramo. Ma ragazzi, state attenti perché ho sentito crack, non è che avete rotto un ramo, no? Sì. Sì, allora c'è, ma non vi si può mandare... Vabbè, io già l'ho mangiata... Che cosa hai mangiato? Quello che è caduto dall'albero. E che è quello caduto dall'albero? Che ci riusciamo a parlare a dire comprensibile. Assomigliava a un mango. Un mango. Tutto intero con l'osso da mandarlo giù. Ragazzi, aspettate perché mi sta arrivando adesso un'informazione tramite ghiandola pineale, eh? Aspettate perché mi stanno... Si trova al confine della Turchia nella Cappadocia, dove il mito vuole che sia nato l'uomo lì. La fonte lì potete trovare. Non lo so ragazzi, ho perso conoscenza, ho avuto un brivido e non so cosa. Vabbè, sarà l'adduzione degli alieni, tranquillo, ogni tanto ti capita. Comunque. Vabbè, quindi avete toppato un'altra volta. Di invecchiamento, direi che una delle cose che fanno diventare vecchi prematuramente forse è questo sistema del lavoro delle 8 ore. Io noto che in genere quelli che sembrano più giovanili, che non invecchiano precocemente, sono le persone che hanno un lavoro che amano molto, quindi un lavoro interessante, e soprattutto le persone che hanno avuto il coraggio e la determinazione di fare delle scelte magari un po' più radicali. Percepire il proprio lavoro come una fatica quotidianamente sicuramente ti fa venire i capelli bianchi. Vorrei portare un aneddoto, un anetto, come diceva il poeta. Io ho un amico che adesso ha circa 50 anni, che quando eravamo giovani aveva messo su famiglia molto presto, quindi aveva un figlio da mantenere, poi ne ha fatti altri due peraltro, e cercava un lavoro. Quindi lui per molti anni, per circa una decina d'anni, ha lavorato nella segreteria di questa piccola azienda familiare, al computer, con i lavori standard delle 8 ore giornaliere. Insomma, è finita che lui ha meno di 40 anni ha avuto un infarto. Il lavoro, come abbiamo detto, è importante perché uno lavora 8 ore durante la giornata, quello che fai in quelle 8 ore ti condiziona molto. Fatto sta che lui dopo questo infarto ha deciso di cambiare vita, e siccome era un musicista di blues ed era un ottimo armonicista, ha pensato che la sua vita così com'era non era quello che lui voleva, non gli dava soddisfazione, e ha deciso di lasciare il suo lavoro e di concentrarsi soltanto sulla musica. Fa il musicista, lui vive di questo ed è un gran bel giovane di 50 anni. Cioè si vede che ha proprio ripreso colore. Adesso insomma è un gran figo, sta fisicamente alla grande e non ha più avuto problemi ovviamente di cuore di nessun tipo, perché fa una vita non molto meno sedentaria. E insomma quello che ho visto io è che cambiare lavoro gli ha fatto proprio bene. Questo è così un racconto di un'esperienza di vita, però secondo me può essere significativo. Gatta di cana, ah, perché tu stai in quell'età in cui non sei né abbastanza anziano né abbastanza giovane. Quando ero giovane io ero troppo giovane, mo che sono cresciuto non sono né abbastanza giovane né abbastanza vecchio. Quando sarò vecchio sarò troppo vecchio per essere un giovane anziano, io mi troverò sempre e comunque schifato. E accenda Camarone, cazzelle, la marogna e tutto quanto, annata, panacqua, e la trasmissione. Inspiración temprana, amigo en el café, me gusta marihuana, me sorprende que la gente piense que por ende la vida se acorta, los sueños se pierden, el error, todo se consigue si le ponemos amor, respeta la planta, fúmate la flor, predico la certeza de que el sueño que se pierde es el que agacha la cabeza. Canta la huella en semina, interminable lección de la vida, la hable se enciende en la calle en la esquina. Hasta la muerte se activa now. Canta la huella en semina, interminable lección de la vida, la hable se enciende en la calle en la esquina. Hasta la muerte se activa. Anhelo de mañanas, inspiración temprana, amigo en el café, me gusta marihuana, me sorprende que la gente piense que por ende la vida se acorta, los sueños se pierden, el error, todo se consigue si le ponemos amor, respeta la planta, fúmate la flor, predico la certeza de que el sueño que se pierde es el que agacha la cabeza. El error, todo se consigue si le ponemos amor, respeta la planta, fúmate la flor, predico la certeza de que el sueño que se pierde es el que agacha la cabeza. El error, todo se consigue si le ponemos amor, respeta la planta, fúmate la flor, predico la certeza de que el sueño que se pierde es el que agacha la cabeza. Sto girando le info che mi avete mandato ai miei esperti, ai miei contatti, e mi stanno rispondendo che no, probabilmente ragazzi non ci siete. Quanto mi dicono loro, siete dietro la fogna di una discarica, diciamo, che in Ecuador. Mi dicono che potrebbero essere scorie radioattive miste a batterie delle macchine elettriche. Cerca, il segreto dell'eterna giovinezza potrebbe celarsi in uno scarto alimentare. So che non è proprio una cosa bella, ma scopriamo insieme di quale si tratta. Il segreto per vivere più a lungo in salute pare trovarsi nei semini degli acini dell'uva. Proprio così. Is that a crow on a crane? Is that you or a plane? Where's your chicken at? I'm watching like a hawk. Eh? I need more birds. Landing like a seagull. Landing like a scanning like a seagull. Landing, landing, landing like a seagull. I'm cuckoo for you, let's talk. Eagle. ragazzi, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok, io adesso... Fa male, siamo sempre dentro una foresta, però insomma, prende. Qui dalla clinica radiofonica a Genzano devo chiudere il collegamento perché mi stanno, diciamo, facendo l'ultimo passaggio di desalinizzazione del sangue. E niente, io vi volevo allora ringraziare tutti quelli da casa, volevo ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato la nostra avventura, la vostra avventura, e vorrei dire a tutti quanti che essere vecchi in fondo è uno stato d'animo, essere vecchi è uno stile di vita e non è poi così male, ecco. Non cadiamo nella trappola della giovinezza, perché il giovine non sa un cazzo, il giovine deve portare rispetto alle vecchie, hai capito? Mi devi portare rispetto, non mi guardare, giovine, non mi devi guardare, hai capito? Bella regà, dai, e viva l'anziani. Tipo nel 2050 saremo tutti vecchi. Esatto. Che non, esatto, ci saranno più giovani. Perché la moda del giovane passa e il vecchio resta. Che saggezza. Vedrete quando andrà di moda controllare i lavori per strada. Quanta libertà. Quanti lavori, quanta libertà. Ma voi lo sapete che i vecchi praticamente te la danno subito e manco si ricordano. Ma neanche tu. Di cosa stiamo parlando? Vi ringrazio, vi mando. Grazie, buon ricambio. Buon rientro. Grazie, buon rientro. DJ Boomer. E ricordatevi, old is the new young. Old is the new young. Ragazzi, buon rientro, ci vediamo all'aeroporto di Ciampino. Bene. Ciao. Bene ragazzi, ciao. Ciao. Prendete bene le vostre pensioni. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Sotto tropicali. voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Una transmisión de Radio Fuerte.